Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti vai, sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parlare di puttane. Ma bisogna sentire il contatto bisogna sentire. C'è dubbio che il culo di una donna va bene e il culo di un fracio no. Scusa, è tanto evidente. Allora, la frase più bella che ho sentito nel weekend, che ho sentito durante il weekend, caro Parenzo, è una, è molto semplice. L'ha detta Berlusconi, che è andato dalla Lega, la scuola di formazione politica, sì, della Lega. Sì, sì. Non mi ricordo dove era, Bologna, dove era, non mi ricordo nemmeno. Era, sì, quella cosa gestita molto bene da Borghi, no? Ma non lo so se è da Borghi o da chi. Comunque è andato alla scuola politica della Fanno Lega bene a studiare, a fare un discorso, e ha detto, oltre a proporre Mario Draghi come presidente del Consiglio, e lì la gente è andata fuori di testa, era prevedibile, è il, come dire, il simbolo di tutto quello che la Lega non vuole, sì, per loro, certo, di tutto quello che non vuole la Lega, e ha detto anche, ha parlato sempre di immigrazione, Gheddafi, le solite cose, e soprattutto ha detto che abbiamo insegnato, ho insegnato a Gheddafi l'utilizzo del bidet. Beh, l'ho trovato fantastico. Sì, questo. Cioè, adesso Gheddafi è morto, chi se ne frega, eccetera. Però a voi pare possibile che Berlusconi abbia insegnato al signor Gheddafi? Non so se gli ha insegnato come si fa il bidet oppure proprio l'esistenza, sai, del bidet. Sai, l'esistenza. Dimmi. Vai tu a immaginare questi incontri sotto quella tenda con le amazzoni. In realtà Berlusconi l'aveva già detto, cioè non è la prima volta, perché si ripete tutto allo stesso modo. Il bidet non mi ricordavo. Sì, sì, senti. In Libia, dopo Gheddafi, che avevamo ormai addomesticato, che aveva messo in campo 6.000 soldati in turni diversi, non veniva più un emigrante dal centro dell'Africa, l'avevo convinto a costruire dei campi di accoglienza, ero riuscito addirittura a fare mettere nei bagni il bidet. Cioè, ragazzi, dai, su questa numero è vecchia uno di un anno. Poi l'ha ripetuta ieri dicendo che lui, oltre a tutte le cose che ha fatto... No, ma la parola che usa è addomesticare in quell'invece. Sì, l'abbiamo addomesticato. Come fosse un animale. Sì, perché era come da addomesticare. Come fosse Moira. Da addomesticare. Come fosse Moira, scusa, che roba è? Che poi è come dire, vabbè, ma questi arabi, no, come Gheddafi, in realtà il bidet non lo usavano, si pulivano il culo con la carta. Beh, come lei sa, però, professore, anche i francesi, sì, bravo, vabbè, esatto, d'accordo. Però, no, vabbè, sì, visto che... No, ma è, no, è un dato di fatto che in Francia non c'è il bidet. Vabbè, ho capito, ma Berlusconi lo dice per dire... No, in abbiamo, senso dispregiativo... Abbiamo insegnato a Gheddafi pure come capito, si fa il bidet. Potrebbe, dai, valere anche per i francesi e per gli inglesi. Anche loro, come tu sai, non hanno il bidet. Gli inglesi, allora, c'è invece, no? un imam, un tale che si chiama Sheikh Nur, un imam, no, delle parti, no, di Padova. Chiama, è un mio amico, si chiama Ali Sheikh Nur. Ma possibile, Nur, possibile che conosci lo solo da islamici? No, io solo imam! Ebrei, solo imam! Conosco. Tutti conosco gli imam. Ma li conosci? Conosco però gente così incredibile. Allora, Ali Ali Sheikh Nur. Sheikh Nur, sì. Ali Sheikh Nur. Che conosco benissimo. Vabbè, se Salvini va al governo arriva, sì, l'ISIS. Dai, sentiamo, dai. Sei una battuta, perché sentiamo. Non può fare battute Ali Sheikh Nur. Sì, ma non ha li fatto può fare battuta, soltanto pensa, il leghista? Lo pensa sul lo serio. Lo può fare soltanto buon anno, no, le battute? Lo pensa sul serio. Fammigliele fare anche al mio amico Ali Sheikh Nur. Al tuo amico Sheikh Nur. Un tale che si chiama Ali Baba. Ali Sheikh Nur si chiama. Non Ali Baba. Crudani. lì Shaq Nur. Crudani, se no ti chiamiamo. Vabbè, sì, Shaq Nur, per capire. Storpiamo il tuo cognome. Un imam di Padova, dai. Questione di rispetto. Ali Shaq Nur. Vabbè, Ali Shaq Nur. Shaq Nur, anche meno male bello, che ci sei tu a dirci come si pronuncia il nome. Che un Islash. Domani potrebbe fare anche l'assessore, magari, Ali Shaq Nur, sì, sicuro. All'integrazione, bellissimo. Serve tantissimo l'assessore all'integrazione, non serve una ben amata mazza. Sarebbe un grande segnale. Shaq Nur, dai. Lei se lo chiede, perché in Spagna, in Inghilterra e non in Francia? E non in Italia, in Francia e non in Italia questa roba qua. E lei mi chieda anche come Gigi Marsulo, mi faccio una domanda e mi rispondo. Cosa succederà se Salvini diventa presidente in questo? Ah, cosa succederà? Avremo gli ISIS italiani. Sui cosiddetti social, sui cosiddetti sul web e non solo, si discute tra leghisti e ammiratori di Alba Parietti. Sembra incredibile, ma tutto nasce da alcune dichiarazioni fatte dal Buona Nazionale qui alla Zanzara nella serata di giovedì. Nella serata di giovedì. Memorabile live. Quando la Parietti disse di Salvini che è un tipo da osteria, da bar, eccetera, eccetera, ma insomma non mi pare una cosa nemmeno particolarmente originale. Comunque ha scatenato un po' di polemica, con Salvini addirittura che replica su Facebook con circa 10.000 commenti. Sentiamo. Salvini fa dei discorsi che da sono bar. Discorsi da bar, cioè da una bar. Volta se andava al bar arrivava il bullo del bar che sparava cazzate. Bravo, esatto. E gli faceva un discorso politico, cioè che non era un discorso politico, diceva le cazzate che gli sembrava che raccogliessero. Vabbè, è chiaro, insomma spara cazzate, un bullo che spara cazzate, così lo definisce. Poi si è incazzata Alba per alcuni commenti usciti sulla pagina Facebook. Allora, ve ne leggo solo uno, così per carità di patria. Alcuni commenti, è andato addirittura a fare denuncia al commissariato e da lì twittava o scriveva su Facebook risposte alle stesse persone che denunciava, una cosa pazzesca. Allora, tappate le orecchie ai bambini. Un signore che si chiama Massimiliano Proverbio, che pare esista, forse vive alle Canarie, forse non so dove, Parenzo, scrive alla signora Parietti: questa troia rifatta e mantenuta da Cornuti, l'unica cosa che può fare è pompine a quantità industriale, eccetera, eccetera. No, senza considerare tutto quello che ha scopato. Ma speriamo che veramente questo signore è un coglione totale, un imbecille. Si può criticare tranquillamente l'opinione. Ma non si può offendere, deve pagare carissimo. Ma non si può offendere gratuitamente così una persona, dai. Cosa che mi è rimasta in testa il weekend è se Gheddafi, grazie a Berlusconi, finalmente si è fatto il bidet o no. Poi è morto, poveraccio, per cui chi se ne frega non può nemmeno rispondere. Però se è vero che grazie a Berlusconi i libici o non so chi si sono fatti il bidet, questo è una cosa che mi ha, è un pensiero che mi ha attanagliato la mente, caro David. Attanagliato. Tu lo fai poco anche tu, no? No, lo ti faccio. Accomuna. Lo faccio. No, tu hai detto che ti fai pochissimo la doccia, quindi questo ti accomuna, sì, diciamo, a chi? A queste popolazioni. Ma quali popolazioni? Quali popolazioni? Quali popolazioni? No, voglio dire, tu come loro ti fai meno alla doccia. Ma no, non mi lavoro proprio tantissimo, perché non... Io non ti ho mai visto fare il bidet, mai. Però. Ma che c'entra? Grazie, non ho mai visto fare il bidet, meno male. No, cioè, mai, male. Non mi hai mai detto, anche quando andavamo a Bruxelles, a Strasburgo, che dividevamo la camera, in tre giorni, tre... Non è vero, adesso non dire stronzate. Mai dai. Visto neanche vabbè, una volta. Ti credo che non mi hai visto. Noi ti rispettiamo, il saluto ti direbbe benissimo. Ma no, dai. D'accordo? Sporco, sporcaccione, schifoso, però... Va bene, d'accordo. Ti prego Cruciani, inizia in fretta che non ne possiamo più di sentire barisoni, basta! Allora, questo tipo di messaggi e altri li potete mandare al 393-71-71-701, vi ripeto, 393-71-71-701. Ti prego Cruciani, inizia in fretta che non ne possiamo più di sentire barisoni, basta! Sarà contento signor Barisoni, signor Barisoni. Qualche giorno fa un signore del Movimento 5 Stelle, tale Bernini, in Parlamento ha citato il complotto dell'11 settembre. Sì, di ma nuovo. Bernini è lo stesso delle microchip, credo dei sì. Microchip, Bernini. Credo che sia lo stesso. Sì, come per dire che anche in Francia, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Sulle pagine del Corriere della Sera il Presidente Emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, faceva notare che tutti gli ambienti democratici d'America e d'Europa, con in prima linea quelli del centro-sinistra italiano, sanno ormai bene che il disastroso attentato è stato pianificato e realizzato dalla CIA americana e dal Mossad, con l'aiuto del mondo sionista, colleghi, sotto accusa ai paesi europei e per indurre le potenze occidentali a intervenire sia in Iraq che in Afghanistan. Queste concluda. Sono le parole di Cossiga, non sono mie. Grazie. Parole. Uno, per citare il povero Cossiga, in realtà si appropria delle stesse parole, non è che lo citi a caso, no? Vabbè ragazzi, però la barzelletta di Berlusconi, voglio tornare a bomba su Berlusconi, perché si è scatenato pure ancora una volta sulle barzellette. Te la ricordi tu quella del sindaco della Lega che non vuole dare la cittadinanza a un cinese? E gli fa delle domande di geografia, di storia, una barzelletta lunghissima, delle domande di geografia, di storia, e questo cinese risponde quasi a tutto. Poi arriva una domanda, senti. Beh, adesso però vediamo coi proverbi. Proverbi italiani sono la scienza, la cultura del popolo. Rosso di sera, bel tempo si spera. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Canchi a baia, poco cotto. Toh! Io a questo la cittadinanza non gliela do. Dai ragazzi, 800 24 00 24, tra un attimo torniamo, eh. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte al giorno. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Tu già stai di un sacco di cazzate. Ciao. Quattro gatti sabato, a Roma. Quattro gatti, Parenzo. Per ogni, no, per ogni islamico questo. C'era un giornalista, un cameraman. Questo non vuol dire nulla, una, non vuol dire niente. Un politico italiano. Conta l'immagine trasmessa. Un islam, un islamista, e poi c'era un giornalista, non un politico. Non c'entra niente, eccetera. Conta il fatto che per la prima volta le più rappresentative associazioni sono scese in piazza con uno slogan molto semplice ed efficace. Grande, cioè, successo di pubblico. Giro... Grande successo di pubblico. Ma non c'entra il pubblico, grande, perché sarebbe successo. Molti di questi qua, di questi islamici, lavora nei cantieri, non è che gli puoi chiedere di andare a fare la manifestazione. Gli islamici lavorano nei cantieri, fanno i muratori, lavorano, sono classe operaia cosiddetta, non è che sono avvocati, notai, magistrati, giornalisti, no, sono dei poveracci, fanno la pizza nelle nostre pizzerie, eccetera. Vabbè, fammi sentire Francesco da Matera. Francesco, sei diventato il portavoce ufficiale. No, era Francesco importante Matera, avere dai. Loro i loro portavoce, chi? I loro leader, i leader della certo esistono i leader delle associazioni. Francesco Matera, dai. Buonasera, sono io, Cruciani. Dimmi, fino a prova contraria sei tu, dimmi. Volevo dirti, sei un coglione fomentatore di merda. Sì, io vabbè, Francesco, ciao, mi hai rotto le scatole. Adesso non voglio sentire voci disturbate. Gianluca Catania, vai. Sì, ciao, buonasera. Io volevo dire tre cose precise sul quanto riguarda l'argomento dell'ISIS. Dimmi, dai. Allora, ho sentito molte persone sinceramente che sparano moltissime. Intanto la prima cosa che volevo dire è ricordare a tutti che la religione è il luogo dell'ignoranza. Intanto. Per seconda cosa io vorrei spiegare a molti, nel senso che comunque diciamo la gente che crede in tutte queste, diciamo, le religioni, io posso capire chi crede che esista un'entità o un qualcosa, ma non tutte queste stronzate sulle religioni, sinceramente poi quello occidentale ancora di più. Una cosa, diciamo, la seconda cosa che volevo spiegare a molta gente che non, diciamo, ignora alcune cose che riguardano le differenze fra, perché, diciomo, è una spiegazione per il quale, perché non succede Gianluca, questo. Gianluca, non ho capito niente. Silvio da Salerno, ciao. No, sì, no, Gianluca, dai, su, che mi vuoi dire ancora? Ho finito, l'ultima. Volevo spiegare una cosa semplicissima, cioè, perché non succede questo in nome del cristianesimo? Perché il cristianesimo ha un vertice che, se tu dai un'interpretazione sbagliata della Bibbia, ti butta fuori dalla comunità cattolica. Va bene, chiaro, già spiegato. Silvio da Salerno, ciao, Silvio. Volevo fare un'osservazione per te per quanto riguarda la tua intelligenza. Mi sembrava strano che tu hai dato, dai per scontato che gli attentati dichiarati siano reali, nel senso, se io metto una bomba e dico che sono, l'ho fatto per, non so, i cattolici, per gli israeliani, per gli egiziani, non fa di questo il popolo o l'entità. tale. Io non ho capito niente. Non ho capito niente. Ciao, sì, io stasera voglio eliminare tutti, uno per uno. Gaetano da Frosinone, dai. Gaetano da... Quelli che non mi piacciono li elimino subito, subito. Gaetano, Frosinone, dai. Sì, pronto? Dimmi, Gaetano, dimmi. No, volevo chiarire questa storia del bidet del mondo arabo. Non c'è, perché nella Bader, dappertutto, anche il cesso più isolato, del posto più schifoso, ha un rubinetto dell'acqua nel water, una cosa molto più civile della nostra. Beh, civile, c'è uno spruzzo, c'è uno spruzzo d'acqua e tutti quanti se non usano la carta igienica, tutti si lavano nel obbligare che dà per mettere il bidet, gli fa una spesa in più inutile perché tanto non lo usano loro il bidet perché si lavano nella tazza. Ma secondo me tra l'altro non è vero, a meno che non ci sia stato qualche intralazzo con qualche azienda che doveva mettere il bidet nella legge di Gheddafi o non so dove, doveva modificare i bagni, a mettere il bidet che loro non usano, non perché non si lavano, perché loro si lavano sempre con l'acqua. Cioè io ho una casa, io sono un pensionato e ho affittato una casa, sto a Tunisi, e a casa mia c'è tu sei un pensionato che dell'acqua. C'è un pensionato, sono un pensionato che in questo momento sono venuto per Natale qui, ma mi sono trasferito a Tunisi perché si spende meno, si sta meglio. Sono di quei pensionati che con 1000 ho letto una cosa ieri, l'altro ieri non mi ricordo, che con 1000 euro la gente sta da Dio in Bulgaria e pure in Tunisia. Beh, pare, sì, no? Vecchia storia. Quanto in Tunisia è eccezionale perché c'è il potere d'acquisto del, cioè del, tu con quando, un dinaro, che pensione hai un dinaro, che pensione hai tu, Gaetano? Io sono un medico e quindi c'è una pensione alta, abbastanza alta, ecco, cioè quanto prendi? 2000, 2005, 3000, quanto prendi? Io faccio le trattenute, cioè in questo momento prendo 2 e 2 e a Tunisi, da pagare, e a Tunisi vivi da, Dio. Ma non, a Tunisi si vive da Dio con 2 e 2 sicuramente, sì. Capito ragazzi, voi che ci avete la pensione, dinero, e rompete i coglioni, andate a Tunisi. Un vino non potete l'acquisto di un euro. E che ci fai con un vino? Ma con un un dinaro è il potere d'acquisto di un euro, però in effetti con un euro ti danno 3 dinari, quindi. E dunque? E che ci fai però? E con un per esempio mangi al ristorante, con quanto? Ecco, faccio un esempio, ho visto il miglior ristorante di Hammamet, la Buglia Bass Royal con la ragossa, costa 60 dinari, che non arriva ai 25 euro, insomma. Va bene Gaetano, ciao. Reza, Bergamo. Sì, niente, io volevo intervenire riguardo di questo discorso del bidet, cioè come ha detto la persona. Amico mio, l'ha detto Berlusconi, abbiamo convinto Gheddafi. Ma non no, cambieranno, stai scatenando una nuova guerra religiosi, adesso. Loro devono lavarsi con l'acqua, se certo. Le guarda anche qui, se vanno in bagno, sempre hanno con loro una bottiglia d'acqua minerale. Non è che portano lì per berlo, lo portano proprio per lavare. Ma io non voglio l'acqua. Dire che no, ma lui ha ragione. Non tra l'altro, prima della preghiera sporchi, si lavano tutto, ma si lavano detto i piedi, che sono... le orecchie. Oddio, adesso... prima di pregare devono lavarsi. Vabbè, capito? Non ho detto che sono sporchi. Ho detto, commentando le frasi di Berlusconi, ho detto no, semplicemente. È un obbligo lavarsi ad acqua. Sì, ragazzi, ho detto semplicemente che Berlusconi, sabato dalla Lega o domenica, sì, non mi ricordo, ha detto una cosa molto semplice. Abbiamo convinto Gheddafi a utilizzare i bidet per la prima volta. Ti rendi conto? Ho capito, questo vuol dire... Ma tu ti rendi conto? Poi dopo dici ISIS, dici che qualcuno si cazza, dici che scopre... Gli dici che non si fanno il bidet, ma questi prima di entrare nella moschea si devono lavare prima di pregare tutto, le orecchie, il naso, gli occhi, ma tu devono fare le abluzioni. Tu per esempio ogni volta che vai in bagno a fare la cacca il bidet lo usi? Allora, io intanto... O fai solo di carta igienica? Io non so se l'argomento interessa a chi dirige magistralmente questa... No, questo non me ne frega niente, se ne interessa a loro. In particolare. No, ma voglio capire tu, ogni volta che vai in bagno, e anche lo chiedo anche agli ascoltatori, tu vai di acqua oppure di carta igienica? Perché moltissimi vanno solo di carta igienica, per esempio, e sono puliti lo stesso. No, in molti paesi c'è chi usa anche le ortiche per quello. No, io per esempio molte volte mi dimentico, vado solo di carta igienica, no, e non vado io. Beh sì, uso mi fa schifo quando non trovi sia... il bidet nei bagni pubblici. Che fai? Vai io in un ristorante o non vai, che il fai paper, il bidet, no? Che l'acqua. Ma sempre. No, sempre paper, e quando acqua. Non trovi l'acqua? Poi mica, quando non trovi l'acqua? Vado al, se vedo che sono in un posto fuori e all'estero, sai che Daffy come faceva? Mi porto la bottiglia di ma acqua, no, naturale. Ma no, ma non dire stronzate, dai. Sì, assolutamente. No, no. Ma non è vero, dai. Ti assicuro, la bottiglia di ma acqua naturale. Secondo te il Papa usa il bidet fa il bidet o usa la carta adesso igienica? Queste sono domande da no, fare. No, ma è interessante come cosa, è fondamentale. Secondo te domande. Quella è l'unica cosa che accomuna cioè, per esempio, quanti. Il bidet fa sprecare acqua, secondo alcune teorie. Ma quale spreco? Ma, sì, è chiaro. Se vuoi ammantare il tuo non utilizzo dell'acqua, no, per io sto dicendo semplicemente con teorie falsamente legate alla decrescita, alla decrescita felice. Sto dicendo che alcune volte, tu prendi la carta, ti pulisci il sedere, restano sempre delle palline, dei residui, io delle posso cose, no? Come sempre. A quest'ora, secondo te, i nostri amici imprenditori della Confindustria, ma chi se ne frega degli amici imprenditori della Confindustria? Dopo un consiglio di amministrazione durissimo, io penso ad esempio a Bomba 6. Bomba 6, io lo immagino che esce adesso dal Senato, andrà in bagno, ma una volta usciva dal suo chilometro rosso, come si chiama, in bagno anche lui, ma andrà in bagno anche lui, no? Che fa il bidet, c'è gli industriali italiani, sale in macchina, accende, sente le discussioni sul bidet. Bomba 6, dopo un consiglio di amministrazione diciamo vediamo un attimo Radio 24. Vabbè dai ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, vai, torniamo dopo il GR. A me mi fa schifo, ma che te devo dire? Non lo so. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Voi seguite i sette comandamenti dell'ecorgasmo? Siete criminali! Si è discusso molto, sempre sul web, sulla rete in questi giorni, Parenzo, dell'intervista che ha concesso qui alla Zanzara il signor Giulietto Chiesa, il quale poi su Facebook ci ha descritti come dei criminali, degli sciacalli, perché non l'abbiamo fatto parlare, ma a me risulta esattamente il contrario. Possiamo essere scettici rispetto a quello che dice, ma non averlo fatto parlare, scettici, critici. Molto critico io personalmente. Sì, d'accordo, però insomma l'abbiamo fatto parlare come credo nessuna radio nazionale, cioè si deve rendere conto il signor Giulietto Chiesa, io l'ho anche detto al telefono, che questa è la radio della Confindustria e che non esiste nessun programma qui che lascia parlare Giulietto Chiesa per una ventina di minuti, una trentina di minuti e lasciargli esporre le teorie, a mio parere bislacche, però magari credibili, in parte. Devo dire che alcune cose sono importanti, quelle che ha detto, per esempio sul fatto importanti. Che no, importanti sono importanti adesso, sì, assolutamente sono sì, perché curiose sono, perché la dietrologia un po' mi affascina, devo dirti la verità. Dubbi. Tutto no, ciò che è inferno, che ultimamente è malefico, ultimamente fai. Alcune cose non mi sono molto chiare. Non allora anche a te. Non mi sono no, molto e allora chiaro. Mi interro... Sentiamo. No. Quali sono le cose poco chiare? No, io dico, il fatto che questi qua fossero comunque monitorati, questi signori che hanno fatto la strage a Parigi, si dimostra che appunto Francia, Italia e tutto il mondo è paese e le intelligence non parlano di loro. Ma cosa vuol dire? Non, lo so, certo? Non lo so, uno non lo era so. Era stato anche fermato dalla polizia. Appunto, più volte non lo so, per quello. Non lo so. Mi vengono dei dubbi, mi vengono dei dubbi, dubbi. Mi vengono dei dubbi, dubbi, sì. Dei dubbi. Mi vengono dei dubbi, esatto. Ho capito, mi vengono che possa, dei dubbi. Che alcune stragi, alcune cose possano convenire. Qualche manina francese possa non lo so, però che alcune cose possano far vincere Olanda le prossime no, elezioni regionali. Questo non lo so, questo non credo, però che le elezioni regionali non c'entrano nulla, che alcuni avvenimenti possano poi scatenare delle reazioni dei mercati, eccetera eccetera, o comunque possano convenire a qualcuno, non c'è dubbio. Cioè che convengono a gruppi di potere, su questo non c'è dubbio. Proprio non ci piove su questo. Cosa vuol dire? Ma non vuol dire nulla, dico, è un dato di fatto. Ma cosa vuol dire? Ogni situazione può convenire a qualcuno, esatto. Ogni situazione. Cioè non mi stupirei, il mondo è ricco di queste testimonianze, è ricco di queste di questi di rapporti matti, di causa e effetto. È vero, non mi stupirei se dietro gli attentati ci fosse una mente e che non lo fa per l'estremismo islamico, eccetera, eccetera. No, ma non mi stupirei, dico, non ci credo, però non mi stupirei se mi offrono delle prove certe, non mi stupisco, capito? Non mi stupisco che dietro questi quattro pazzi drogati di Parigi magari ci sia una manina che vuole scatenare una manina. Eh sì, è così, perché non è possibile, ci sarà una manina, ci sarà una manina, ci sarà un burattinaio, c'è dietro. Un signore che si chiama Califfo, c'è una roba che si chiama fondamentalismo islamico, c'è una cosa che si magari c'è anche altro, mi domando, tutta me lo domando Europa. No, chi è che non mi chiama adesso, tu? Pronto, chi è? Vabbè, intanto Giulietto Chiesa, dai. Gianluca Versace, che quelli che hanno ammazzato l'intera redazione del Charlie Hebdo erano dei giovani che erano stati organizzati, armati e formati dai servizi segreti francesi. Allora, tu stai dicendo, scusa, tu stai dicendo alla fine, Giulietto, scusami, ma dove è uscita sta roba? A combattere in Siria. Tu stai dicendo, ma dove cosa... l'ha trovata? La Francia, sì, il governo francese, che ha subito quello che ha subito in questi giorni, sì, è un paese terrorista che ha attaccato indebitamente la Libia e la Siria. Ma no, e ma non si può dire che la Francia è un paese terrorista. Ma non si può. Chiesa, io posso anche legare, seguirti. Ma come si fa a dire che è un paese terrorista? Quelli che sono morti a Parigi è colpa di Hollande, chiedere conto anche al loro stesso governo. E questo è il comunicato del califfo. È esattamente quello che ha detto il califfo. Questo che ha detto Giulietto. Chiesa, mi dispiace perché ce l'ho qua, è esattamente il comunicato del califfo. Sarà, non ci sono cazzi, come si dice in questa trasmissione. Sono sempre più convinto che è meglio il dipreismo dell'Islam, ragazzi, eh? Cioè addirittura meglio il dipreismo, secondo me. Meglio il dipreismo. C'entra niente. Andrea, lo so, non c'entra, però meglio il dipreismo. Andrea da Roma, dai. Ti posso arrivare a dire questo addirittura. Andrea da Roma, dai. Sì, allora, volevo una questione fondamentale sullo scontro di civiltà e il bidet. Volevo avvertirvi che l'Islam proibisce l'uso della carta igienica. Come, scusa? L'Islam proibisce l'uso della carta igienica. Ma non credo proprio, non credo, dai, su. Googleate, andate googleate. Vabbè, non credo, diceva, consultate la Treccani, studiate, googleate. No, no, è proibito per sharia. Ma non credo, dai, proibire la carta igienica. Ma che cos'è l'Islam alla carta, spiegata? Aspetta, troverete, come notizia riportata da tutti i grandi quotidiani, sì, che il Gran Muftì di Ankara ha fatto una fatwa nella quale apre finalmente nel 2015 all'uso della carta igienica in uso in casi straordinari nei quali è impossibile Ma che dobbiamo googleare? Corriere della Sera. Il Gran Muftì di Ankara apre all'uso della carta igienica in via straordinaria. Sì. Se manca l'acqua, dal 2015 un musulmano si potrà pulire il culo con la carta igienica. Prima del 2015 è vietato per sharia. Immagino a me non che... fa ridere sto povero idiota. Ma no, è vero. Immagino che paesi meno progrediti della Turchia, immagino l'Arabia Saudita, non abbia fatto questa apertura alla carta igienica. Però ragazzi, però... effettivamente c'è una notizia sul Messaggero qui. Turchia fatua sdogana l'uso della carta igienica, consentita in mancanza d'acqua. Guarda che non ha torto. L'Islam sdogana la carta igienica secondo... Ma non è l'Islam, cioè, ma però cerca di capire. Mamma mia, ma però ma devi stare un po' tranquillo però. Cioè devi rilassati un attimo, cioè stai tranquillo, rilassati, non prendere tutto seriamente, non pensare che qui è l'Occidente, si scherza, si ride, per fortuna si piglia per il culo, infatti è vero, infatti è vero. Allora se è vero uno, ma stai tranquillo, rilassati, scherza, ridi, ridi, scherza, è l'Occidente, non siamo né in Israele dove ridono peraltro, né in Arabia Saudita, ma stai tranquillo, ma rispetto di che, ma chi è rispettoso, ma devi stare tranquillo, amico mio. Sorridere, ma devi stare tranquillo. Però, queste cose qui ti colpiscono particolarmente. Sta scherzando, sta ridendo. Andrea, stiamo ridendo. Andrea, dai, forza. Ma veramente, volevo finire. Il Gran Muftì di Ankara è una delle massime espressioni dell'Islam sunnita, è un'autorità, non è che stiamo parlando esatto, di un comico. Guarda, l'Islam sdogana, no, hai ragione, l'Islam sdogana la carta igienica, secondo una fatwa della direzione affari religiosi del Gran Muftì di Ankara, un tale che si chiama Gormaz, la principale autorità religiosa islamica sunnita turca, adesso consente di utilizzare altri materiali per pulirsi, capito? È consentito utilizzare altri materiali. Anche se rimane preferibile l'uso dell'acqua corrente, certo. Sì, però stiamo parlando di una fatwa seria, noi che stiamo stiamo dicendo che la massima autorità islamica turca ha aperto aprile 2015 della carta igienica, ci auguriamo il grande progresso, delle società islamiche, certo, no? Ci auguriamo che lungo l'esempio del Gran Muftì di Ankara facciano una fatua analoga in Arabia Saudita, in Yemen, negli Emirati Arabi, in Qatar. Ci auguriamo per il bene loro, nostro e dell'umanità. Però volevo anche aggiungere una cosa minimamente seria. Sì. La differenza tra l'Islam e le altre religioni è proprio che l'Islam per Sharia impone il comportamento minuto degli esseri umani. Il comportamento? Minuto, nei minimi dettagli. Puoi o non puoi usare la carta igienica, puoi o non puoi dire una cosa, puoi o non puoi mangiare una cosa. Sì. Quando religioni più connesse con la ragione, come può essere il cristianesimo, ti danno delle linee di massima, ma poi come decidi di pulirti il culo, noi lo chiamiamo libero arbitrio, e quindi preferisco la carta igienica. Poi devo dire un'altra, cosa, no, ma è molto chiaro, Allora, però la cosa molto semplice è questa. C'è chi preferisce, per esempio, farsi il bidet con la faccia rivolta verso il muro, altri preferiscono farselo, anche gli uomini, con la schiena verso il muro, cioè l'acqua ti arriva, il getto d'acqua, prima sulle parti intime, diciamo, anteriori oppure nelle parti intime subito dietro, Parenzo, no? C'è questa grande diatriba. Io qualche volta, devo dire la verità, che ho dei dubbi ogni volta che vado a fare il bidet. Cioè, ho dei dubbi su come voltarmi, se mettermi davanti, qualche volta mi vado davanti direttamente, qualche volta mi volto. Effettivamente sono problemi. Va bene, Boris da Torino, vai. Ciao, senti, su questo volevo darvi un suggerimento. Esistono anche le tavolettine, quelle umidificate, le tovagliettine umidificate, vai al supermercato, ti puoi comprare. Sì, però amico mio, io già non giro, già faccio fatica a girare con tutto quello di cui ho bisogno. Certo, non sono come quei malati che vanno in giro con le salviettine umidificate. Perché non hai bambini piccoli. Ma no, anche quando avevo i bambini piccoli, io non andavo comunque in giro. Quando avevo Viola piccola, non andavo in giro io con le salviettine umidificate. Perché? Ma perché non andavo in giro con le salviettine umidificate? Non andavo in giro. In macchia, non le tenevi. Casomai le utilizzi alla bisogna, le compravo, ma non è che vado in giro io da solo, dai. Ascolta, una richiesta. Cioè, non è che me le porto perché poi mi capita di andare nei bagni pubblici e pulirmi. Ci vado quando ho bisogno e mi pulisco così come capita. Ogni tanto resta, come dire, la striscia. Ragazzi, c'è poco da fare. Cioè, a te non ti è mai capitato che vai nei bagni pubblici e lasci la striscia sulle mutande? Ma è normale, la vita di tutti i giorni, di tutti noi. A tutti capita di non potersi lavare bene, anche perché fa abbastanza schifo lavarsi bene nei bagni pubblici. Per esempio, in treno, no? Un dramma. Quando riscappa, quando devi andare a cagare in treno, Parenzo, è un dramma assoluto. Cioè, nell'Eurostar è un dramma. Non so, no, francamente. No, no. Cioè, se tu riesci a pulirti bene anche nell'Eurostar, anche nel Freccia Rossa. L'ora in cui io espleto queste funzioni non interessa a nessuno, ma come ebbi già a dire in altre occasioni, io sono solito espletare questa funzione tra le 6:45 e le 7 del mattino. No, guarda, ma ti capita in treno qualche volta, no? Essendo, ripeto, una persona molto regolare, Boris, che vuoi dire? Dai. Faccio questa funzione tra le 6:45 e non ti le muovo, 7. Dai. Boris, dai, forza. Poi ogni volta l'intervento del tipo che aveva la moglie che pisciava e gli hanno rubato la borsa era spettacolare, quella la devi far sentire tutti i giorni, perché io devo ridere quando vi sento, devo ridere. Ciao, ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacra. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione di ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Cioè, grazie a Rito non conosce vergogna. Allora ragazzi, l'Italia è veramente un paese assurdo, non so se avete letto sui giornali, forse a qualcuno è sfuggito, anzi sicuramente a molti di voi che non leggete i giornali per fortuna e vi informate su altre cose, è sfuggita una cosa, no, è un progresso informarsi anche su internet, sul web, non solo sui giornali, i giornali ad integrandum. No, hanno un sacco di limiti i giornali, soprattutto chi li comanda e soprattutto chi li edita. Io a leggere, sì, bisognerebbe sapere chi sono gli editori, eccetera, eccetera. Ma che roba Allora, aspetta un attimo, aspetta una cosa, aspetta una cosa. No, che i grillini, le persone. No, ho detto neanche più. Non sto dicendo di non leggerli, non sto dicendo di non leggerli. Bisogna vedere chi è il padrone dei giornali. Ma sempre, certo, sempre, sempre. Bisogna... No, padroni, non si sa, non si sa. No, la gente non sa chi è il padrone del Sole 24 Ore. No, non lo sa. La gente non sa chi comanda il Corriere della Sera. No, non lo sa, gli amici tuoi lo sanno. A il giornale. Gli amici tuoi lo sanno. Ma guarda, la gente non è stupida. Giornale sì, perché uno che va a comprare il Libero del Giornale sa che sono di destra. Uno che va a comprare l'Unità sa che è del PD. Uno che compra il Sole sa che è della Confindustria. Poi magari nel Corriere dici chi è che comanda il Corriere. In tanti, gli Agnelli, un aspetta, po' di aspetta, banche. Ma stai zitto un attimo. Allora, non so se avete letto una notizia che è uscita sugli animali ancora una volta. Cioè, in Italia qualcuno ha avuto il coraggio, un magistrato, di mandare sotto processo un signore, un pescivendolo, credo dalle parti di Torino, se non sbaglio, comunque in Piemonte, un pescivendolo perché aveva messo degli astici, tre astici e due aragoste sul proprio bancone con il ghiaccio e con le chele, cioè con le chele, sì, con sì, le, sì, quello che è. Le tenaglie, sì. Sì, le chele fasciate dagli elastici. Ah, cioè se lo fanno sempre nei ristoranti? Sì, pare che sia. Nei ristoranti di pesce lo fanno di continuo. Sì, ma pare no, le chele tenute insieme dagli elastici. Sì, nei ristoranti pare di che pesce. Sia, sì, è vero, pare che sia formalmente vietato, lo sai? Cioè pare che formalmente qualche follia di regola contro il maltrattamento degli animali o contro non so che cosa dica che è vietato. E dunque è che nei ristoranti se tu hai ste chele poi giustamente quelli le tengono con lo scotch alle volte qualcuno lo no visto. Ma perché altrimenti si mangiano, ti ripeto, formalmente è vietato. E un tizio, un pescivendolo, è stato portato in tribunale dunque con avvocati eccetera eccetera. Alla fine è stato assolto per la tenuità del fatto. Per la tenuità del fatto. E la sentenza è stata pubblicata addirittura su manuali giuridici per la sua totale inutilità. Cioè, in questa vicenda sono stati coinvolti agenti della Polizia Municipale, 4, un veterinario della SL, magistrati, avvocati. Tutto questo perché per alcuni astici d'aragoste legati da alcuni elastici. Vi rendete conto della follia totale? Beh. Perché una stronza di animalista si è avvicinata a questo banco, si è messa paura o comunque è rimasta colpita da queste aragoste che si muovevano legate e dunque maltrattamento degli animali, capito? Invece ne ha combinata un'altra l'amico Gio Formaggio. Caro Gio, che è successo? Ciao Gio, come stai? Ciao, bene, voi? Non c'è male, pare che tu hai messo dei cosi lì ad Albettone, un manifesto. Avevo messo un manifesto perché la sera prima dei ladri avevano tentato di entrare in alcune case, no? Sì, sì. Avvisando questi ladri senza offendere nessuno, sì. Caro Parenzo, stavolta sono stato bravo. Sì. Allora, senza offendere nessuno, scrivendo: cari ladri, state attenti perché visto che la metà della mia popolazione è armata, è facile che vi prendiate qualche fucilata. Beh, oddio, aspetta, Gio, non hai scritto solo così. Allora, si comunica, questo cartello enorme, no? Una specie di benvenuto al comune, una specie di... Welcome to Albettone. Esatto, si comunica a tutti, ladri, bastardi, delinquenti, cercaguai e persone indesiderate, che in questo comune non esiteremo a spararvi se violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie. Quindi, per la pace di tutti, non entrate nel nostro territorio oppure tirate dritto senza fermarvi. Così, esatto? Sì. Beh, no, che hai fatto? L'hai dovuto togliere? No, l'hanno tolto i carabinieri e l'hanno portato anche questo in procura. Inspiegabilmente, però. In che senso spiegabilmente? Ma insomma, allora, ho avvisato i ladri che perché non si faccia male nessuno, è meglio che tirino dritto. Quel comune ormai è diventato la barzelletta d'Italia, perché ogni volta ne accade una repubblica a sé stante. Eccolo, bravo, definizione asettica, ma la posso condividere. Cioè è un posto dove ogni tanto... Una repubblica autonoma, è straordinario. Si sta benissimo. Una repubblica autonoma di formaggio. Dove vengono messi i cartelli autonomi non riconosciuti dallo Stato? C'è uno che costruisce... Per esempio, la prostituzione c'è formaggio nel tuo comune? No, non c'è nessun tipo di prostituzione. Cioè, non c'è una zocca, la possibile, dal Bettone non c'è una puttana? Dai, su, non è possibile. Il sindaco non è informato di ciò. E ci sono drogati? Beh, qualcuno sì. Qualcuno c'è. E c'è gente che fuma spinelli? Credo di sì. Credi di sì? Beh, sì. Non ti disturba evidentemente la cosa. Ma allora, finché rispettano il prossimo, rispettano la proprietà privata. Sì. Omosessuali? E si co- Omosessuali, beh, qualcuno ce ne sarà. Qualcuno come ce ne sarà? Quanti abitanti c'ha il Bettone? A partire scusa. Dal sindaco. 2005. 2005 ci sarà, il solito 10%. Quant'è di 2005? Ci saranno all'incirca qualche un centinaio? No, no, tanti così no, però qualcuno. Qualcuno c'è. Però qualcuno tu non che cammina un po' dondolando lo vediamo. Ma però no, dopo. Come qualcuno qualcuno che cammina dondolando. Ma, ma, perché dovrebbe, come ma perché camminano dondolando gli omosessuali? Scusa, Gio. Non farmi dire cose che no, non voglio perché? Dire. Ah, perché? No, perché lo prendono in quel posto, allora, dici? Allora, questa no. È una allora, rappresentazione io ho un comica, paio, dai. Ho un paio di amici miei che camminano dondolando, che so che insomma sono un po'... Scusa, come si suol dire, ma perché no? Camminano dondolando? Non capisco per quale motivo. Spiegami. Torniamo ai cartelli. No, ma questa... dopo mi trovo tutte le associazioni lesbiche, omosessuali, eccetera. Sarebbe contro. Giusto. Ma scusa un attimo, perché gli omosessuali camminano dondolando? No, ma questa... ti ho detto, ma tu i sei miei, una persona miei, spontanea, miei vai. Due, I miei due omosessuali del Bettone camminano un po' dondolando. Perché ce n'hai due tu omosessuali, due di numero, quelli che conosci camminano dondolando. Ma perché camminano... Ma perché? Ah. Dilla tutta, Joe, dai. No. Non la vuoi dire, vabbè, d'accordo. Camminano dondolando perché lo prendono in quel posto, questo volevi dire, dai, su. Mamma mia. Perché no. Sono abituati a prendere in quel posto, dunque camminano un po' barcollanti, così. No, è una rappresentazione è una rappresentazione veramente cioè, guarda, mi sta scrivendo in questo momento un amico che si chiama Abdallah Kabakebji, dentista siriano, molto simpatico. Ma perché Parenza hai solo amici islamisti? No, ho molti amici islamici. Veramente cattolici di tutte le religioni del mondo. Vabbè, ne ho due o tre islamici che conosco bene. Famoso Kabakebji, sì, che dice? Come l'hai pronunciato? Kabakebji. Ce la puoi fare Abdallah... dire una volta? Ah, non lo dico. Come sai dire il nome di questo cazzo di formaggio? E lo sai questo chiamare facile, formaggio e non Joe Cheese. E lo chiami Joe Formaggio trattandolo come fosse Churchill con tutti gli onori del mondo, come fosse il più grande statista vivente del secolo, che governa un comune che neanche, di cui neanche conoscevo l'esistenza. Aspetta, c'è uno che scrive: sto facendo la cacca, solo carta o anche bidet? Io direi solo carta. Puoi imparare. Fai un esperimento. Puoi imparare a dire il nome di Abdallah Kabakebji, dentista Abdallah siriano. Kabakebji, esatto, che mi scrive. Vabbè, allora che mi scrive: oggi sono fuori, sentirò la Zanzara in podcast che non me ne perdo mai, sì. Però mi dispiace alle volte per le offese che vengono fatte nei confronti di noi musulmani. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Civiltà. Ma ce ne faremo una ragione. Delicatezza, una che alle volte sentire sì, perché Gio, lui, non ho capito che è successo con quel cartello, spiegami. Formaggio? Formaggio? È caduto, è andato, formaggio? È andato a fare qualche retata in giro per il suo comune. Carlo, provincia di Macerata, dai. Adesso riprendiamo. Se n'è andato con la coda tra le gambe il formaggio. Il cheese con la coda tra le gambe se n'è andato. Aspetta, formaggio, che è successo? Ci sono, è caduto tutto. Se neanche tenere il telefono in mano, figurati. Che è successo no, a quel cartello? Non sa governare la rete. Dai, che è successo a quel cartello? Gio? Allora, i carabinieri sono usciti e hanno preso via il cartello dove c'era scritto questa bellissima frase. Sì. Allora, tutti i miei cittadini d'accordissimi su questa cosa qua, i carabinieri hanno ritenuto opportuno portarlo in prugno. Che hanno fatto? T'hanno denunciato? E adesso ho mandato in procura i miei avvocati, vediamo. Ma se ti hanno denunciato i miei avvocati, non uno. Ma ti hanno denunciato? Per che cosa ti hanno denunciato? Sai che puoi averne due di avvocati, no? Sì, ma non ti hanno denunciato. Ti hanno denunciato o no? Allora, devono ancora arrivare le carte, però se, hanno detto che è istigazione a delinquere. Ah, istigazione a delinquere, giusto. Cioè ti hanno tolto. Prima istigazione all'odio razziale con i nomadi, no? Cioè adesso ti hanno denunciato per istigazione a delinquere, cioè il fatto che tu inviti la gente a sparare, inviti la gente a sparare. In un paesino qua vicino hanno già sventato 5 o 6 furti sparando. E un mio carissimo amico, perché è diventato un mio carissimo amico, ha sparato spaventando i ladri del suo vicino e i carabinieri sono andati a sequestrargli tutti i fucili. Finché li sequestravano i fucili, i ladri hanno fatto altre 10 case più avanti. Dunque, beh, non è che funziona così. Dunque, no? sparate. Questa è la tua. Sparate. Allora, preferisco avere un vicino che, se succede qualcosa alla mia casa, viene fuori e spara in aria, piuttosto uno che si fa i cazzi suoi. Comunque, no? Ragazzi, istigazione a delinquere. Hanno denunciato il signor Formaggio per istigazione a delinquere, togliendogli quel cartello in cui dice non esiteremo a spararvi. Vediamo cosa succederà. Ah, se, secondo me, prima o poi per te finisce male, te cacceranno sicuro, cioè da quella poltrona. Ascolta, se tieni Parenzo in radio, puoi prendere anche me. Quindi se mi buttano fuori dal sindaco, mettono in carcere per un po', quando esco vengo a Radio 24 anch'io. Va bene, vedremo. Ciao caro, ciao. Allora Carlo, vai, provincia di Macerata. Carlo, dimmi. Carlo? Rosario da Perugia, vai. Eccomi, dai. Buonasera. Dimmi. Io vivo a Perugia, sono di Salerno, mi chiamo Rosario. Vabbè, questo io lo chiamo. Mi chiamavo perché ho reagito un po' di pancia quando hai affermato che ci potrebbe essere una sorta di dietrologia a questi attentati di Parigi. Ho ascoltato per un po' e distinto ho voluto chiamare per capire come mai poco prima avevate fatto del sarcasmo sul grillino. A me non me ne frega niente dei grillini del 5 Stelle, però che in qualche modo. No, ma io non sto dicendo, io non credo mai a queste teorie, sto dicendo. No, ok, però voglio dire, lì si prendeva quasi in giro uno che evocava della tecnologia per le Torri Gemelle. Qui non lo so, il dubbio c'è. No, non ho detto il dubbio c'è. Io ho detto un'altra cosa, che io di solito non credo a queste teorie dietrologiche, assolutamente no. Sto dicendo semplicemente che da un po' di tempo a questa parte alcune cose vanno semplicemente lette, sentite, ma punto e basta. Ma cosa va letto? Che va letto e sentito, ma chi nega? Ma queste cose qui sono balle, fatte cose per depistare, per creare... Ma... Vabbè, fermo lì. Pippe, molte pippe. La Zanzara. Sai cosa c'è di bello? Che alla fine ci conquisteranno i musulmani, ma a me e a te, Cruciani, siamo uomini, al massimo ci facciamo la barba. Stanno poco allegre quelle figacce che li difendono, va là. Cruciani, per lavarsi il culo quando si è in giro ci sono le salviette, quelle dei bambini, quelle umide. Cruciani, ti si onto, te che cavei onti, lavate! Com'era questo in Veneto? È un Veneto, ti si onto. Onto vuol dire sei sporco. Ti si onto vuol dire sporco, appunto. Sì. Come può quell'idiota di Parenzo dire non si offendono le persone in questo modo? Lui che fa solo quello di mestiere. Boh. Allora, eravamo con Carlo, se c'è ancora. Carlo, provincia di Macerata, vai. Sì, buonasera, io sentivo, era voi che non mi sentivate. Vai, dimmi. Comunque, premettendo che sono amico di Massimo Di Fermo, che lei ha conosciuto telefonicamente tramite... Cioè, non ho capito, tu mi stai dicendo, sono amico di Massimo Di Fermo, che tu hai conosciuto telefonicamente. No, che lei. Vabbè, lei, tu, lei, uguale, dai, che ho conosciuto. Non me lo ricordo tutti quelli che chiamano, amico hai mio. Hai parlato con Guardavassi. Vabbè, dai, forza Carlo, su, vai, dimmi, dai. No, non me ne frega niente. Io comunque avevo telefonato perché ho delle perplessità per quanto riguarda Valeria Solesin. Cioè, che perplessità hai? Sin da quando è successo tutto, no? Non è stata ritrovata subito, primo. Cioè? Che perplessità hai? Scusa, spiegami, che è successo secondo te? Perplessità nel senso che una che non è stata ritrovata subito, adesso invece la versione è che stava tra le braccia del fidanzato, mi sembra una cosa un po'... un controsenso e poi e dunque che sarebbe successo, non ho capito quale sarebbe la cosa, no, quale sarebbe il trucco, non è il trucco, è un atrocio dubbio, nel senso che quale sarebbe il dubbio? Un'altra volta che se mi fa parlare è successo un'altra volta che una che è stata ritrovata in ritardo era amica di quella che aveva messo, ecco, io non è che voglio dire che questa poverina era un'amica, però adesso su televideo quando scrivono sul televideo di ieri quando scrive la versione del fidanzato della procura usa sempre il condizionale. Vabbè, primo. Senti amico mio, questa è morta bravo, dissanguata, è morta, tra le mani del fidanzato, morta, perché non credi che sia morta, non ho capito. Vabbè che c'è qualcuno, tu lo sai, ma Parenzo? Ma com'è possibile che non è stata ritrovata subito? Vabbè, ma ho capito, ma non è che lei è stata ritrovata. No, non si sapeva chi era. Ma c'erano un sacco di persone di cui è stato difficile fare l'identificazione subito. Ma adesso chiama un salame, da dove chiama questo qui? Dove ha chiamato questo salame qua? Da dove ha chiamato questo salame? Da fermo, ma si fa fermi il cervello. Adesso l'ultimo salame d'Italia chiama e dice: Come mai? Ma abbia rispetto per i genitori, abbia rispetto per questa persona. Aspetta, fammi leggere, fammi sentire. Anche la madre, quando è stata ascoltata, quando l'hanno ritrovata ho sentito l'intervista della madre, non era una madre travolta dal dolore, mi sembrava l'avvocato che doveva difendere questa ragazza che era accusata di qualche cosa. Ma in che senso, scusami? Carlo, una che è morta la figlia, una che gli è morta la figlia, l'ha intervista 2 ore dopo, l'ha trovato. E lei dice: ah, mia figlia la difendeva. È un controsenso, no? Invece di essere distrutta dal dolore, la difendeva come se qualcuno l'avesse accusata. Andate, voi la potete vedere l'intervista. No, però Carlo, non ho capito la tua teoria, qual è? Non ho capito bene. Non è una teoria, è un atroce dubbio. E il dubbio atroce quale sarebbe? Quale sarebbe? È stato valorato dal fatto che ieri su televideo se va sul televideo di ieri, sì, ho capito. Allora usano il condizionale, poi la ciliegina sulla torta, e quando ho visto il fidanzato non so se è più stupido lui, Mauro da Mantova o Donato da Varese, ma che c'entra adesso, dai, cioè, nel grado di stupidità non so chi sia più stupido. Temo questo, però, perché è successo, temo questo. È successo che una donna di neonata era amica, una donna? Una donna è stata alienata in un precedente attentato, adesso non mi ricordo, 2 anni fa, no? Non si trovava. Era perché era amica di quello che aveva messo la mia, che si è fatta esplodere, adesso non mi ricordo. Dunque, tu, il tuo dubbio qual è? Che fosse amica di uno di questi qua? Non che lui, che lei manca sapeva che lui ci aveva proceduto, chiaramente, no? Però siamo alla follia, dai. Io non ho capito qual è la teoria. La follia che stava vicino a lui. Entrate insieme a lui. Ma era la fidanzata! No, sciocco, no, uno sciocco! No, l'attentatore, dice. Ah! Ma perché tu gli vai anche dietro? No, sto mandando l'ambulanza. Ecco appunto. Dove si trova? Ripristinata, va? Dove si trova? Sono amici. Ma sì, chi sono amici? Due amici vestiti di bianco, vedrà. Sì, esatto, sono amici, sicuro. Vestiti di bianco, però. Convivono con le morti. No, ma non ho capito bene. Sì. Secondo te, allora, dove si trova? Quella morta è amica degli attentatori? No, secondo me, ho un atroce dubbio. Ma quale atroce dubbio? L'atroce dubbio è che con lei non funzionano né i farmaci né la permanenza degli ospedali. Questo è il dubbio atroce. Mamma mia. Quando si parla di queste cose ti incazzi sempre. Ma mi incazzo perché se uno è stupido e alimenta stupidaggini. La cultura della morte. Ma che c'entra gli islamici adesso? Non c'entra niente. Perché questa era filo islamica. Mi passi il medico, basta. Ma come era filo islamica? Perché il medico? Passami il medico, dai. Passami il medico in corsia. Passami il medico. Ma è stato intervistato il fidanzato. Sia gentile, chiuda il telefono e chiami quello in camice bianco con sopra scritto dottore. Perché la procura, se voi mi ricordate, ma non c'è nessuno in corsia, infermiere. Quando non si ritrovava questa ragazza, hanno aperto subito un'indagine. Ma non c'è l'infermiere. Ma quale indagine vuoi aprire su una persona che apri un'indagine? Cioè tu stai dicendo come che mettetegli l'accio emostatico, un attimo, mettetegli il farmaco per cortesia, non è possibile che sia ancora in circolazione. Ragazza, stava vicino a quello o lo conosceva, e addirittura secondo me lui è entrato insieme a lei. Cioè l'attentatore è entrato insieme a lei? Esatto. Dai, che adesso lo portano via. Ma come mai a quest'ora ancora non sono? Devono mangiare una minestrina a quest'ora? In genere sono già a letto con le sbarre chiuse. telefonata, ne riparleremo. Ciao, ciao. Ciao Carlo, ciao Carlo. No, lei è un salame, lei è un salame. La Zanzara. Voglia di scopare, voglia di scopare, scoperesti chiunque, pure a te per esempio, no? Allora Davide, io proverei a chiamare Matteo Salvini, è lunedì, proviamo a chiamare mancava, Salvini, che dici? No, sì. Mi ha detto che si stava imbarcando. Non interviene mai in nessuna trasmissione, in televisione. Vai a cagare, dai, su, cioè non rompere le balle, su. Aspetta che sto dando il biglietto proprio adesso, devo prendere il pullman. Dammi. Ma che sta facendo? Secondo, ti ho fuori il documento. Matteo? Aspetta. Grazie mille, buon lavoro. Matteo? Alla prossima. Arrivederci. Buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Eccomi. Abbiamo con noi Matteo Salvini. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Salam aleikum, segretario della Lega. Ma chi è Salam aleikum? Salam aleikum. Ma che cos'è? Sei andato sabato alla manifestazione? Sì. Sei andato sabato alla manifestazione. Bellissimo. E dunque hai imparato l'arabo. No, sapevo già prima. Salam aleikum e si risponde aleikum salam. Dunque erano quattro. Quindi Parenzo era uno dei 13 che ha manifestato contro il terrorismo islamico sabato. Quindi sì, sì, sì. Anzi, grande mobilitazione di piazza, enorme mobilitazione dell'Islam moderato, evidentemente stava facendo shopping sabato pomeriggio. Oh, un inizio, un inizio. Un inizio. Cioè, senti, la Parietti, per sì, andare sul discorso, perché è venuta da noi. L'hai anche twittato, scusa. E ha detto che alcune cose che aveva già detto, peraltro, sarei terrorizzata se Salvini guidasse il paese, sarebbe quasi da andare via, allora. Fa discorsi da bar, come è un bullo, spara cazzate, eccetera, allora, eccetera. Addirittura adesso propone un faccia a faccia con te. Lo vorresti fare un faccia a faccia con la Parietti oppure no? Prima su cose, sulla legge Fornero, sugli studi di settore, sulla flat. Perché? Cosa? Non ti sembra in grado? No, no, per carità, io ho molta meno spocchia di lei, di quella sinistra che ritiene che la cultura sia solo lì e l'intelligenza sia solo lì. Io mi confronto con tutte e con tutti. Tendenzialmente colui con cui mi confronto non lo invito con l'insulto. Però per carità di Dio, se si può portare un importante sviluppo per il futuro del paese. Senti, ma io non ho capito una cosa. Il crocefisso nelle scuole tu lo renderesti obbligatorio? Assolutamente, laddove c'è non lo toccherei. No, ma lo metteresti, no, per legge, proprio. Lo metteresti nelle classi? Assolutamente sì, ma non per un fatto religioso, per un fatto identitario. Ma lo diceva Croce ben più dottamente, vabbè, di me, questo, qualche anno, vabbè, fa. Non è una questione anche del tempo. È una questione di identità, di cultura. Cioè, metterlo obbligatorio. Ma non è meglio mettere la foto del capo dello Stato, ad esempio, che unisce tutti e chiunque, quella della bandiera italiana. Ma anche la foto di Parenzo abbracciato alla Parietti, perché no? Così almeno. Ma che gliene frega nelle scuole la mia foto. Dal mio punto di vista, sì, è un segno di affetto, di inclusione. Di inclusione. Senti, c'è un imam che ha detto che se vinci tu arriva l'ISIS. Questo dovrebbe, se vince lui arriverà l'ISIS. Il signor... Perfetto, sul primo aereo. Il signor imam, gli pago il biglietto io. Vabbè, sul primo aereo, destinazione casa sua. Ma è una polemica, dai, su, è un imam di Padova, è una polemica, così come se ne fanno tanti. Sì, ma non si scherza, ci sono città blindate, ci sono metropolitane chiuse. No, ma ho capito, però... Senti, a proposito di cacciare o non cacciare, allora, finalmente dopo tanto tempo sembra che avete trovato sto nome. Per il sindaco, sembra che avete trovato il nome per il sindaco di Milano, il signor Sallusti. Ma guarda, signor Sallusti, è una delle ipotesi. Oggi leggevo sul giornale che c'è anche il nome dell'avvocato Bernardini De Pace. Ci sono fortunatamente altre persone che pare si stiano facendo avanti. Cioè, non è l'unico. Tu dici, ma che cos'è che mi piace? Io l'ho detto da subito, mi piace, però fortunatamente, come Lega e come centrodestra, non c'è una sola scelta, e quindi entro breve valuteremo se... Però voglio dire una cosa, Matteo, Berlusconi è andato alla festa della Lega, là, della formazione politica, alla festa, alla, quella, sì, quella roba lì, e ha detto alla che... Scuola politica, alla scuola politica. Anche a scuola, noi riusciamo anche a leggere, a studiare. ha detto alcune cose, alcune insomma un po' delicate, cioè, che non sono andate molto giù alla platea. No, la cosa di Mario Draghi è una pazzia assoluta. E appunto dico, ha detto, ha proposto Draghi premier, e amico mio. Dell'Europa delle regole sbagliate, dell'euro che ha fatto strage di imprese, adesso ce lo mettiamo a comandare l'Italia, no grazie. Però ha detto Berlusconi che è alleato vostro, cioè... Però poi, vista in la casa vostra, della platea, non in casa vostra, entusiasta, ha detto oppure un altro. Io posso fare la foto con l'amico? Prego, prego. Ma con chi fai la foto? Con questa, uno deve partire. Siciliano, poi te lo passo. Siciliano, passalo, passalo. Che è? Sì, sì. Sei sicuro che è siciliano? Ci parlo io. Sì, ecco. Scusi, compagno? Compagno, passa al compagno un attimo. No, se gli dico compagno ti butta il telefono. Non ma chi è? Ma allora è tutta finta, se non ce lo passi al telefono è tutta una finta. Va bene. Io non ho capito, Berlusconi è stato anche un po' scortese a fare il nome di Draghi davanti alla platea leghista, o no? No, ha detto quello che pensa, che non coincide con il nostro pensiero. Per cui mai Draghi premier, è una cosa che proprio non esiste, cioè non sussiste come cosa. Ma è come dire a uno che si è preso l'influenza, esci sul balcone a torso nudo che ti passa, e così questa è un'opera di come cioè, proprio un problema. La causa dei mali, una delle cause del male di oggi è la causa di tutti i mali, è Draghi. Dunque, è uno dei problemi. Silvio, se lo scordi questo. Assolutamente sì. Ma il velo lo vieteresti tu? A parte che è già vietato. Non è vietato per niente. Sì, per legge sì, sono poi giudici, per legge sì. I capelli tu puoi tenere alle suore, allora vietate alle suore di avere i capelli coperti. Quello è il velo. Uno dei giudici migliori che abbiamo in Italia, Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia. La legge c'è, basta farla rispettare, e ora finalmente di far rispettare le regole. Chi arriva in Italia rispetti le regole. Le donne velate non vanno in Italia, ma i capelli non possono stare in pubblico. Voglio vederti in faccia. Voglio vedere. Ma vietato il velo. Ma infatti è così, il velo sono i capelli, mica è quello integrale. Ci sono delle persone che sono in giro per i mercati di Milano a cui vedi solo la fessura degli occhi. Chi c'è lì sotto? Dai, forza. Vabbè, ma quello è già vietato, per forza, certo. Allora togliamoglielo. Quello, ma il velo è un'altra cosa, il velo è quello che ti copre i capelli. Scusa, è una cosa diversa. Tu usi spesso perché magari ti piace pure, vabbè. No, quello a me no. Io ho altri piaceri, diciamo. Arrivederci, a presto, arrivederci, ciao. Salute. Io vivo in Svezia e qui non esiste il bidet, quindi a volte quando mi trovo al lavoro mi devo lavare comunque il culo e me lo lavo nel lavandino. Io penso sia una cosa normale, no? Mica posso stare col culo sporco di merda al lavoro. Hai capito? Ma su pagliaccio di Parez, ma uno non può avere la sua opinione che salame questo qua, sono le cazzate che dice lui, che si lavano il culo con l'acqua e poi non si lavano le mani. Mannaggia. Allora ragazzi, 800 24 00 24, questi erano messaggi arrivati a questa favolosa segreteria telefonica. Bisogna inventarsi i programmi solo così, solo con queste voci che arrivano. Adesso ci penserò. Luigi da Pisa, vai Luigi. Buonasera, senti, ma non è che quello delle Marche era tanto pazzo, perché se voi seguite la cronaca dell'attentato a Parigi... No, però quello delle Marche, è vero che la ragazza era dispersa, mentre poi si è scoperto che è morta nelle mani del fidanzato. Ma non si può fare dire stupidaggini. Ho capito, così, basta! Dai, ho capito, su. Ma all'inizio tutti negavano la morte di questa ragazza. Non c'è negavano la morte nessuno. Ma chiudile e basta, non si può sostenere, deve ancora esserci il funerale. Sì, ma devi stare tranquillo però. Ma non si può far passare delle stupidaggini di questa gente in libertà. Non ha detto nulla Luigi per adesso. Ma non è rispettoso. Ma lascialo parlare, ma mica stiamo a cosa qua. Ma non è che ognuno può dire, ma non è che si può però insultare la memoria delle persone, una tragedia come quella. La cronaca anche di questa benedetta radio dove lavorate voi, va bene? La cronaca della vostra radio. Per un giorno e mezzo non c'era un italiano nel mezzo, non c'era nemmeno ma morti. Cosa c'entra? Ma non si può sostenere queste cose, ma guarda, abbiate rispetto della gente, ma guarda che è incredibile. Ma se non c'era, e poi il fidanzato era presente, poteva dire morta, era lì, porco Giuda. Ma non era per un giorno e mezzo. Ma non si può, chiudilo, non si può tollerare sta gente, ma veramente. Devi stare tranquillo. Ma però non cioè non può essere ogni cosa fuori dalla linea. Ma no, perché si sta, bisogna avere rispetto delle persone che sono morte. Noi abbiamo grande rispetto, non ti preoccupare. Se qualche stronzo telefona e dice stupidaggini come questa, e allora basta, che cosa bisogna fare? Chiudilo e mandalo via. Ma chiudi e mandalo via, anche farlo parlare. Ma che non si può superare, questo fa schifo. Ma io non dai. Chiudo niente, questo qua sta dicendo a una cosa. A me fa schifo questo che dice, come mai una allora ti fa schifo, l'hai detto, ma bravo. Adesso fammi parlare. Fai schifo te e tutti quelli come te. Ma dai, ma non si può tollerare sta roba, su. Ma è ciarpe, fa schifo. Dopo due giorni che questo è morto no, lui sta dicendo, lui sta, no, dicendo, sta dicendo delle stronzate, lui sta dicendo una cosa, sta dicendo una cosa, gli è parso strano, gli è parso sicuramente da discutere, sicuramente c'è non qualche è una spiegazione su cui si può discutere questo. Allora gli è parso strano a Luigi, che prima diciamo non si sapesse nulla, dopodiché si è scoperto che questa qua è morta nelle mani del fidanzato, almeno così ha raccontato il fidanzato, no, tra le braccia del fidanzato. Però Luigi, c'è una spiegazione per tutto. La spiegazione che ha dato prima il signore da Fermo là in provincia di Asco è ridicola, cioè è entrata insieme al terrorista, è patetica, dai. Alla fine su quello io sono d'accordo. Sono come quelli che leggevo oggi, ti assicuro, ci sono alcuni personaggi su web che sostengono che l'attentato di Parigi è un falso, che sono tutti attori ed attrici. Un altro addirittura che discute sul fatto del concerto satanista, cioè i genitori sapevano che quello era un concerto satanista o no. Cioè, c'è gente che discute di questa roba qui, Luigi, capito? Luciani, io seguo Radio 24 continuamente. L'anomalia è che fino a domenica mattina non si sapeva di questa ragazza. Ancora domenica mattina ho sentito Radio 24 presto al mattino. La famiglia del fidanzato dice che probabilmente la ragazza è morta. Questo va detto. Vabbè, mettiamo pure che ci siano state, come dire, una comunicazione complicata per mille motivi. Che cosa vuoi dire con questo? Non ho capito. Ma magari nel dolore ci può. No, ma che tutto, vuoi dire però... con questo? Cosa vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che c'è un'anomalia nelle dichiarazioni di questo fidanzato. Cioè, tu dici, mentre prima non si è saputo subito. Ma non è che uno discute di tutto, eh? Vabbè, Davide, ma qual è il problema? Non ho capito. Uno discute di tutto. Ma qual è il problema? Qual è il tuo problema? Non ho capito. Ma qual è il tuo problema? Nessuno sta sputando su nulla. Imbecilli che te dicono, instillano stupidaggini. Io veramente incredibile, guarda, incredibile. Io secondo me quando uno sente una roba che è fuori dalla norma, lo dovrebbe e chi supera un limite della decenza. Ma qual è la decenza? Non ho capito. Qual è la decenza? Qual è la decenza? Non ho capito. Ma è quello di dire delle stupidaggini senza nessun controllo. Ma chi lo giudica quali sono le stupidaggini? Ma mi pare evidente, cioè io non posso neanche mettermi a discutere con uno che no, dice lui non ti mette a discutere, lui si sta chiedendo perché. Infatti non discuto neanche. Lui perché si sta chiedendo. Bisogna dire è una stupidaggine. Per me infatti è una stupidaggine. Perché non punto. Si può dare per come me è una dire stupidaggine. Però il microfono a qualunque imbecille dica una stupidaggine. Pubblicità, è dai. È una roba folle. Pubblicità, diventa. Dai. Pubblicità. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Ma come ti piacerà la decessa a te? Io già te vedo che torni a casa e ti fai la seghetta. Ma io lo vedo. Allora ragazzi, andiamo a Barese. Nicoletta, vai. Nicoletta. Nicoletta. Nicoletta. Eccomi. Dai, dimmi. Pronto? Dimmi Nicoletta, dimmi. No, perché avevo le cuffie. Vai, no, dimmi. Volevo raccontarvi una cosa divertente. Vai. Visto che ci sono tutti che parlano di terrorismo. Io ho mimato ai miei tre figli maschi. Sì, che anni, quanti anni hanno? Quanti anni hanno? No, adesso sono più grandicelli. L'ho fatto quando avevano le scuole, facevano le scuole elementari e mi hanno chiesto: mamma, ma che cos'è? Che dicono tutti? Insomma, fatti una sega. E io gliel'ho mimata. No, spiegami una cosa. A che età, scusa? Elementari, a che età? Alle scuole elementari. Uno era in quinta elementare e gli altri due erano in terza elementare. In terza elementare. Cioè, ti hanno chiesto in coro o a turno, tanto per capire? Non mi ricordo più se vabbè, ti hanno chiesto, ti hanno chiesto cosa... Mi hanno detto, ma mamma, ma tutti dicono, fate una sega, io continuavo a dirgli, no, questa cosa qui, insomma, non si dice, è meglio che non la ripetete, eccetera. E poi? E loro hanno detto va bene, ma che cosa vuol dire? E io gliel'ho fatto vedere. Ecco. Ma si poteva fare anche in un altro modo, usando, cioè, non lo so, e poi usando, ognuno fa quello che vuoi. Come sono cresciuti poi? Usando? Perfettamente. No, ho usato il mio avambraccio, ecco. Ci ho messo su un calzino. Ho fatto delle pieghe sul calzino, poi ho mimato il gesto. E gli ho spiegato che la natura ha fatto in maniera da associare il piacere a questo atto, perché poi la cosa rende possibile la propagazione della specie. Per esempio, io mi masturbo più adesso che quando avevo 14 anni. No, questo qua è un signore che è intervenuto una volta, però non riesco a capire, Nicoletta. Loro sono cresciuti sereni, tranquilli. Sono cresciuti sereni. Sì. Tu a un certo punto, quando loro erano molto molto piccoli, cioè dire alle scuole elementari, ma tu... no, molto poco piccoli, cioè non hai idea, alle scuole elementari si dicono queste cose. Sì, come? Assolutamente, può dar... veramente non mi risulta, cioè mia figlia adesso non è che mi ha chiesto il significato di alcune cose, ma però può darsi... Perché le femmine vabbè, non ma comunque chiedono, lasciamo perdere, i maschi... Sono più ingenui i maschi. D'accordo, i maschi, i tuoi tre maschi ti hanno chiesto a un certo punto cosa significasse questa roba qui, cioè dire sì, farci una perché, serie. Io non ho capito il mimo come è avvenuto, cioè il gesto del mimo come è avvenuto, non riesco bene a capire. Allora, tu ti metti un calzino sì, lungo sì, sul braccio. Cioè, arrotoli il braccio, non ho capito. No, non arrotoli il braccio, ci infili... La cioè, mano, infili, tutto, infili tutto. Il braccio, sì, fai il pugno e lo infili dentro il nel calzino. Calzino. E poi? Lasci un po' di calzino ridondante vabbè, questo si è capito. Dalla mano, poi con l'altra mano sì, fai il movimento. Ma non c'è braccio, bisogno, perché c'è bisogno di mettere il calzino? Non ho capito. E beh, perché comunque devi mimare la pelle che di solito è in eccesso e che poi a un certo punto, siccome il membro si allunga, si allarga. Ma non c'è bisogno quindi... di spiegare a un bambino piccolo una cosa del genere? Perché spiegare no? così tecnicamente una cosa di questo tipo? Non ho capito il allora, uno perché è una mia deformazione professionale, carino, perché io sono una biologa e quindi sono abituata a dire le cose come stanno. Primo, okay, scientificamente. E secondo perché siccome la sega normalmente è tutta un'altra cosa, cioè una roba che si usa per tagliare i rami eccetera, sì, loro non capivano perché dire ti fai una sega fosse una cosa vabbè, sconcia, insomma, non mettevano in relazione le cose. Va bene, i grandi ecco, racconti di Nicoletta da Varese. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora Parenzo, c'è una persona al telefono che non sentiamo veramente da tanto tanto sì, tanto tempo. Cioè, veniva spesso ospite da noi quando le cose erano più tranquille, quando le cose ancora non si erano un po' come dire, complicate, quando le cose non erano finite in tribunale, si poteva parlare in maniera abbastanza libera di Berlusconi, di amori, di olgettine, di bunga bunga, eccetera eccetera. Recentemente non la sentivo da un po' di tempo, l'ho vista prima al processo, no, nelle immagini del processo di Bari, col volto struccato, non che da noi si presentasse in radio in maniera particolarmente particolarmente travestita, cioè nel senso non era particolarmente truccata, trascurata, ma non era particolarmente truccata, cioè era sempre abbastanza acqua e sapone, no, te lo ricordi, no, la signora? Non te la ricordi? Credo di aver capito di non chi te la ricordi, parli. Escludo Paolo Franchi del Corriere. No, che ma che c'entra quello? No, appunto, dai. No, dico, escludo editorialisti. No, si parla... Allora, è venuta spesso da noi alla radio. Adesso sì, è, se non... Ah, intanto è una donna. Una donna. Non è una giornalista. No, ma che c'entra? Giusto? No. È una protagonista di questi processi. Sì, è stata anche condannata recentemente a 16 mesi. Ah, è stata condannata, perché se no pensavo avessi invitato la bocca sinistra. A 16 mesi. Sabina, come stai? Ciao, come stai? Quanto tempo? La regina. Quanto è una vita, mi siete pure mancati. Ma finalmente ti sento, come dire, quasi sorridente. L'altro giorno in tribunale ti ho visto prima della sentenza piangere addirittura, dirotto. Oddio, ci credo. Dopo tanti anni, dopo 7 anni che c'avevo delle cose dentro di me. Che ma era tutto vero, erano tutte lacrime vere, era tutta roba o di coccodrillo. O no? Beh, ma se ti pare, non mica c'avevo i truccatori che mi potevano truccare quelle lacrime. Cioè, non avevi una cipolla in tasca? Sì, ma ero anche diventata orribile. Era orribile, eri normale. non eri truccata, non eri niente, avevi quelle, eri un po' gonfia, sì, ma nemmeno troppo, diciamo la verità, eri una persona normale che va a testimoniare in tribunale senza acchittarsi, come si dice in gergo, no? Io però, Sabina, voglio dirti una cosa, ma tecnica, però, tu sei stata condannata a 16 mesi, ma perché cosa? Ma non sono veramente stata condannata, diciamo che una specie di retromia. Allora, guarda, io neanche non mi intendo di queste cose. Cioè, manco lo sai te. Sì, no, mio avvocato mi ha detto che significa un reclutamento, che significa che fa 90 giorni loro fanno un appello e poi il mio avvocato dice che non è. Mi sa che un anno e 4 mesi. Sì, un anno e 4 mesi, 16 mesi, esatto. Sì, 16 mesi. E quindi praticamente questo potrebbe essere, perché il fatto che non ci sono veramente, che non ci sono delle cose che potrebbero davvero... Infatti l'hanno detto... Ma che cos'è? Induzione alla prostituzione? Che cos'è? Sì, una cosa, ma infatti gi- l'hanno tolto questa cosa qua, non ce l'ho, non ce l'ho più. Vabbè, sei stata condannata a 16 mesi per avere portato delle ragazze a casa di Berlusconi. Sì, ma questa l'ho organizzato, ma scusami, se io organizzo una cena, è vero che l'ho fatto, ma poi dopo alle queste ragazze, che lui ci parla con queste ragazze, io dico una cosa che perché lui ci parla, adesso mi scuso, mi chiedo perdono perché io l'avevo offeso quel giorno, ma ho detto perché ci parla con queste troie, quindi che cosa che tu fai, ti organizzi una cosa e poi dici sei gelosa perché lui parla con delle donne e non ci combacia questa cosa. Ma queste donne chi erano, quelle che portavi a casa? Mi adesso non è che vogliamo rifare il processo. No, erano tre ragazze che si è portato Tarantini, cioè io l'ho chiesto perché eravamo 10 uomini, c'era George Clooney e io non sapevo cosa fare, poi io ho detto ti prego porta delle ragazze, sì io parlavo in un modo un po' è vero che ci parlavo perché la mia parlata era un po' anche diciamo non che ma con chi parlavi vero. Con chi parlavi al telefono, con Tarantini dici? Ma sì con Tarantini parlavi di troie, di troie eccetera. Sì ero la coppia un po' di Berlusconi perché lui parlava un po' così tette così allora cioè, come parlava scusa come parlava Berlusconi? Sì, ma sì mi diceva sempre ah queste tette qua là oggi magari io non avrei usato più queste parole perché ma però Berlusconi che parte in un certo modo non mi torna, cioè lui utilizzava delle cose, portami qualche troia, così parlava? No, mai ha detto una cosa del genere. Non direbbe mai parolacce. Ma questo perché... non l'ho detto nemmeno io ho detto perché ci parli con questa troia, ho detto io a Berlusconi. Sì, sì. Perché ero gelosa perché lui parlava con queste ragazze, questa ragazza l'ha detto al tribunale, ha detto, confessato che io ho detto al tribunale. Quando lei parlava con Berlusconi, sì. Ha detto che io sono venuta da Berlusconi e l'ho insultato, ho detto perché ci parli con questa troia, erano queste ragazze che ha portato Tarantini, quindi sì. se io fossi stata una organizzatrice che per Berlusconi che ci doveva andare, mica posso andare lì poi da lui dire perché ci parla con le troie. Sì, vabbè. Però adesso vedremo. Sabina, comunque tu hai paura, cioè non è che finisci in galera, no. Ma no, non ci finisco, se Dio vuole non ci finisco, mio avvocato ha detto che se Dio vuole che tutto va bene, io finisco questa cosa qua. Cioè, vabbè, adesso ci sarà l'appello, vedremo che succede. Cancella, sì. Senti, ma tu hai detto una cosa che a noi hai già ripetuto tante volte alla radio, cioè che hai amato tantissimo Berlusconi, che è stato sostanzialmente un tuo fidanzato Berlusconi per un periodo. Beh, sì, certo. Per quanto tempo siete stati fidanzati? Più o meno. Ma guarda, ho iniziato con fidanzamento, poi c'è stato fidanzamento, poi c'è stato, ma non lo so, c'è stato... Che ne so, sei mesi, un anno, due anni, quanto sei stata fidanzata? Tanto, tanto, 7 anni, 8 anni. 7 anni ma fidanzata? Ma che 7 anni, dai, vai. Ma scusami, l'ho conosciuta nel 2004. E tu sei stata fidanzata dal 2004 fino a quando? Ma sì, ma cioè, poi platonico. Non so che fidanzato, sì, più o meno dopo... Dopo più o meno sì. Dopo platonico, cioè qualche atto sessuale ci sarà stato prima all'inizio, qualche cosa. Ma non è che io adesso posso parlare di questo di delle cose di sessuale con Berlusconi. Ma ormai Berlusconi non conta più niente in Italia. Sì, sì vabbè, ma che c'entra? Non è una cosa con cui mi fa preoccupare. No, però tu stai dicendo l'ultima. Sei stata finanziata 7 anni. Platonicamente perché sono state delle cose che io non ho più voluto in questa maniera che era giusto che io li volevo bene, cioè ero innamorata di lui però sì. non sono andata con nessun altro uomo e ho deciso di stare con lui, ho deciso per quanti di amarlo. Anni per quanti però, anni per sempre per tanti anni non sei stata con nessun altro uomo? Sì, no, e lui lo sa questo, lui era sempre contento e mi diceva sempre che mi avesse amato, mi avrebbe amato anche se fossi gobba e brutta, mi diceva, perché questo certo però, io dedicavo il mio amore a lui, non facevo nient'altro che... E quanti anni sei stata senza andare con nessun altro? 7-8 anni? Beh, tanti, non so se tu ci puoi credere, però no, io ci credo. Che ne so, ci credi, se me lo dici tu più o meno. Beh, io ci credo, io non ci ho mai avuto un fidanzato, non ci ho mai stato con un fidanzato. Ci ho avuto degli uomini che mi facevano le corti, io ci uscivo, giocavo, perché... Poi comunque ero una ragazza che non è che stavo tutta... Ma allora, quanto è durato il periodo? Scusa, non è chiaro, qua dobbiamo dirimere una questione. Quanto è durato il periodo in cui tu sei, devo dire, di castità? Tanti, ma scusami, è la verità. Cioè, no, la verità te lo chiedo, quanti anni? Tanti, tanti, tutto il tempo che sono stato con Berlusconi. E lui lo sa, lui era contento, era felice, si vantava perché... No, no, amavo solamente lui, era contenta di questo, era lui, era felice. Ma ti ha mai scritto? Lui, ti ha mai scritto? Lui era una cosa speciale, me lo diceva sempre, sì, che era speciale. Ti ha mi ha detto anche tante volte, si è scusato con me. Una volta si è scusato e mi ha detto: mi dispiace, perdonami, se non sono un uomo che ti poteva dare quello che tu. Perché lui poi andava con un sacco di donne, pure lui, no? Cioè. Questo, l'hanno detto tanti, lui diceva sempre, l'ha giurato sui suoi figli, che lui non faceva una cosa del genere. Senti Sabina, ma ti ha mai scritto una canzone d'amore? Ho dedicato una canzone, un qualcosa? Sì, sempre. Sì, una volta era bellissimo, una volta ero tanto triste, ero in Sardegna e lui mi ha cantato La Torpedo Blu. La Torpedo Blu, la canzone della Torpedo Blu. E mi ha chiamato al telefono e me l'ha cantata, era bellissimo, era fantastico. Beh, ma lo faceva sempre, sì. La Torpedo. Ma erano, guarda, io posso dire che per me i cosa è stato lui? Cos'è stato? Una specie di tutto, prima fidanzato, poi padre, lo hai detto? Sì, era tutto, ma tutto, sai cosa c'è? Io ero talmente innamorata di lui che io credevo che questo amore fosse stato per eterno, che l'avrei amato sempre. Ho capito. Poi è arrivata la Pascale, allora, poi è arrivata la signora Pascale, però. Sì, e non mi interessava, ma la signora Pascale c'è stata sempre, anche quando c'ero io. Lei è spuntata solamente fuori quando io me ne sono andata. Ah, così. Cioè, prima la fidanzata eri tu, in sostanza, prima della Pascale. Ma io non lo so quello che lei faceva quando io non c'ero, io so che lei c'era, che comunque. Ma durerà questa storia? Beh, alcuni dicono c'era già. Per questo lui diceva sempre che non c'era, ma io sentivo che questa c'era, che non c'era lei, che ne so, che c'erano, giravano, però lui diceva, giurava che non c'era questa, che questa non esiste, che è solamente una che così, ma questo non posso raccontare adesso, sono delle cose intime molto intime, certo. Però, insomma, fermi tutti un attimo, ferma lì che abbiamo la pubblicità, stai lì. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione di ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. La Zanzara. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu. L'automobile. Sabina, te la ricordi? Sì, me la ricordo, e come no. Allora, siamo in collegamento con Sabina Began, da un paese sconosciuto, anzi no, dalla Germania, se non sbaglio. Dalla Germania. Ma cosa fai in Germania? Ma dicono che non stai più in Italia, non stai più in quell'appartamento. Sì, ma sai cosa c'è? Mi hanno detto che me ne devo andare dall'Italia, mi hanno messo tante paure. Ma chi? Non ci devi, chi te l'ha detto? Chi ma ti tanti ha detto? Loro mi dicevano no, loro, perché sai, chi loro? I giudici e quelle cose lì, io sono andata dai giudici e per me erano pure carini, sono stati comportati benissimo con me, mi hanno detto, mi dicevano è qua, là, mi chiamano paura, ma veramente non era la mia paura, era la paura di loro. Comunque, ma loro chi? Ma loro, sì, loro, tanti loro ci sono. Tanti comunque, loro, sai, vabbè. Sì, comunque per me. Comunque, ma adesso che fai? Stai in Germania, torni in Italia, no, che ma fai? Quello che ti voglio dire, io sono contenta, una cosa che cosa? Voglio dirti. Che io sono grata a Dio e grata chiedo a Dio di perdonarmi per ogni respiro del mio amore che io abbia dedicato a questo uomo. Lo chiedo perché oggi io. Ma sono che diversa. Peccati, che cosa hai commesso tu? Hai fatto qualche non stronzata? Niente, non hai fatto niente. No. Hai portato qualche donna a Berlusconi? Hai organizzato qualche cena? Non ho mai fatto questo. Le cene, delle ragazze. Dopo Tarantini, non ho mai portato nessuna ragazza a lui. Non l'ho mai fatto, lui si è fatto 5-6 mesi, non so quanti, con Tarantini, faceva delle feste senza che lo sapevo io. E poi mi diceva che lui era impegnato, giurava a suoi figli. Ma perché voleva tutte queste ragazze a Berlusconi? Perché voleva tutte queste ragazze a Berlusconi? Ma sai cosa c'è? Io oggi dico perdona a Dio perché ho amato questo uomo, perché per me oggi un uomo che diceva che mi amava perché se fosse anche brutta e goba mi avrebbe amato, ma poi non si contenteva di mille donne così che lo diceva, quindi alla fine come fai? Oggi io quando... Per cui ti mentiva un po'? Cioè, mi mentiva sempre. Ti mentiva sempre. Mi ha sempre mentito. Per questo dico, per ogni lacrima che l'ho versato, per ogni amore che l'ho dedicato, chiedo sì. il perdono. Non, il giudizio a Dio, chiedo a Dio che giudica questo amore tra me e lui. Non, no, lei sta dicendo una cosa, se riesco a capire sì. queste sue frasi un po' contorte. Cioè, la cosa è questa. Lei dice, lui mi ha mentito, mi ha sempre tradito, diceva che ero l'unica, in realtà non era così, eccetera, eccetera. E dunque io gli ho dedicato un sacco di lacrime. Per queste lacrime e per queste cose che ho dedicato per la vita che ho dedicato a lui, chiedo addirittura perdono. Cioè, perdona a Dio, perdona cioè, Dio. Ti sei, Dio, non capisco. Ti sei pentita di aver dedicato tutto questo tempo a Berlusconi, Sabina? Con tutto il mio cuore. Ti sei pentita? Con ogni goccia che, mi, che sono fatta da Dio, di ogni goccia che sono creata, da quella profonda goccia, da quel esistente sì? quando sono stata creata, chiedo sì? perdono. Chiedi perdono perché se potessi tornare indietro non ci passeresti nemmeno 5 minuti con Berlusconi. Mai, non auguro nessuna donna. Addirittura. Mai nessuna donna. Ma tu sai che cosa vuol dire? Sai che vuol dire? Che cosa vuol dire stare dentro ed amare un uomo che ti dice le bugie, che ti dice che tu preghi e lui piangi tutto giorno e notte, preghi, io ci andavo dei santini, facevo di lui per proteggerlo e poi magari lui ci faceva le feste o andava... andavo a fare, non lo so, che faceva, a me mi diceva che stava con i figli, sai che vuol dire per tanti anni essere una prigione, io adesso vedo la luce. Ma i santini che vuol dire? I santini, spiegami. Sì, ma andavo nelle chiese, andavo ovunque, pregavo a Dio, piangevo nelle chiese, cioè proprio in lacrime. Cioè prendevi prego, i santini in mano, sì, per proteggere Berlusconi. Ero una bambina, ero proprio completamente... innamorata, ero persa. Io dicevo che volevo dare la mia anima. E lui invece, e lui invece faceva i comodi suoi, diciamo la verità. Cioè, ti mentiva. Ma sì, ma allora non capivo, io credevo, io ci andavo lì. Quando mi arrabbiavo con lui, dicevo, io non ti voglio più vedere, non voglio più stare con te, non ti amo più. Dopo un secondo lui riusciva a cambiare la mia mente, io uscivo e l'amavo ancora, capito? Cioè, sì. Lui aveva un potere su di me che era una. Era veramente un potere pazzesco, magico, quindi... quasi. Ma raccontaci, sì, raccontaci un po' la scena. Era stata una sofferenza. Tutti pensavano che io ero felice perché ero sì sui giornali, perché facevo la forte. Io piangevo giorno e notte. Piangevi. E adesso le cose sono cambiate. Adesso le cose. Finalmente sei libera da questa oppressione. Diciamo, grazie da questa... Dio, sì. Sì. Ma sei anche fidanzata? No, ho dedicato la mia vita per questi anni. Ho dedicato molto. Addio alle preghiere. Ma non è che te fai suora, no? Ma sai, è l'unica cosa per uscire fuori da là. Ma è l'unica cosa, solo Dio riesce con la sua forza a farti uscire pulita. Se tu vedi delle ragazze che l'hanno frequentato, non lo so come sono. Cioè? Io sono grata a Dio, mi sento pulita. Invece le altre come sono, scusa? Ma io non li voglio giudicare, io prego per lui, io prego a Dio che queste ragazze possano essere aiutate. Sai cosa voglio fare un giorno? Io voglio aiutare le ragazze perse. Ma perché si sono perse? Perché si sono perse nel buio, capito? Perché si sono perse? Perché si perdevano a casa di Berlusconi? Scusa, spiegami. Queste oggettine, perché? Non lo so che cosa lui fa, non lo so come fa, ma si perdono. Ma scusa un attimo una cosa, ma alla fine ti ha regalato pure una casa, sembra, una grande casa, 1,5 milioni di casa ti ha regalato. O no? Sì, ma grazie a Dio che mi ha regalato una casa, cioè sai che cosa io ho fatto per lui? Mica tutti capitano, questa casa, anzi, mi dovrebbe dare un castello. Ah, ti dovrebbe dare... l'amore che l'ho dedicato io, un amore puro, vale non, un castello, non può mai comprarsi con i soldi né questa vita né nell'altra vita. Sì, ma i suoi torti alla fine quali sono? Tu dici, mi dovrebbe dare un castello. I suoi torti quali sono? Cioè quello di essere, cioè di usare le donne come stracci? Questo vuoi dire? Ma no, questo io non ho detto che usa le donne come stracci. Io non dico questo l'ha detto lui. Lui ha detto che lui una volta ha confessato, per questo io anche ho cercato di uscire dalla sua vita, ha detto che lui le donne non le ama, le odia perché devono pagare perché gli hanno fatto male. E dunque? Ha detto così. Lui ha detto così. E lui ha detto così. E come le considera secondo te? Cioè, le considera delle, che ne so, cioè di... Ma che ne so, questo chiedilo a lui, perché io grazie a Dio non voglio mai sapere neanche un po' perché come lui si comporta con queste ragazze. Questo è lui, tra lui e Dio lo sa e lo metto sempre davanti a lui. Dio ma lo chi sa sono, chi è che ha sfruttato chi? Cioè le ragazze hanno sfruttato Berlusconi o Berlusconi ha sfruttato le ragazze? Ma io secondo me le ragazze sono povere, le ragazze hanno bisogno di essere aiutate. Sì, non lavorano più, dice. E dunque lui le ha sfruttate, diciamo? Ma io non so se era sfruttato, cioè io o loro hanno sfruttato Berlusconi. Io penso che chiunque vada e cioè che fa delle cose per denaro, che io poi non so, non l'ho visto, ma quello che sento, sì. che dicono e comunque No, è una cosa dove tu entri in un meccanismo, buio, e questo buio è una cosa orribile, dove tu è molto difficile uscire da questo buio. Ma scusa, ma oltre alla casa, che ti ha dato Berlusconi? Pure soldi, contanti, cose, versamenti, altre cose? Sì. No, beh, mi ha dato, no, veramente, diciamo che lui mi dava sempre dei soldi. Io questi soldi non li volevo, una volta sono. Ma in tutto quanti soldi ti ha dato? In tutto, facendo un totale. Non mi ha manco dati, non mi ha manco mantenuto tutte le promesse che mi ha detto. Figurati, io sai che ho lavorato per lui, ho fatto delle cose e lui non mi ha mai mi pagava così, ogni tanto mi diceva tu non devi lavorare, io ti mantengo perché tu sei la mia, io ti mantengo. Io dicevo no, io devo lavorare, quindi io gli portavo delle persone importanti che erano mie conoscenze, non le sue. Allora noi facevamo delle cose insieme, quelle che andava bene per lui, però io prendevo una piccola somma, lui se la faceva la grande, capito? Poi alla fine noi abbiamo fatto un conto e gli ho detto almeno dammi questo, cioè quello che mi merito dammi questo, cioè almeno, ma neanche quello mi ha dato, capito? Quindi, adesso come campi? A parte questa casa? Campo, cioè io campo bene perché faccio delle cose, cioè comunque nelle mie amicizie nel mondo sono importanti, quindi... Ma in tutto, però qualche soldo adesso tu dici no, non mi dava niente, qualche soldo te l'avrà dato, cioè tutti questi anni che sei stato con lui, quanto a mezzo milione di euro l'avrei tirato su? Dire che lui non mi ha dato niente. Mezzo milione Ma lui non mi ha dato niente. Senti, ti posso dire una cosa, lui non una casa, dato soldi. Quello che mi ha dato Dio. Perché quello tutto. Senti, per me Dio è quello più grande donatore di qualsiasi cosa. E lui vabbè, d'accordo, Dio. Però mezzo milione te l'ha dato in tutto. Ma lui è stato solamente il mezzo di darmi per delle cose che io ho lavorato per lui, che neanche mantenute. Quindi, vabbè. Ha lavorato in che senso? Lavoravo intermediaria, faceva... Intermediaria, ma scusami, ho fatto un sacco di cose. Intermediaria che cosa? Però, Sabina, scusa un attimo, Che cosa? La Pascale, come la giudichi la Pascale? Una volta hai detto solo diamanti, borsette e trucco, hai cambiato idea oppure pensi lo stesso? Ma sai, se loro pensano che si amano, per me va benissimo. Ma pare che si siano lasciati loro. Adesso, sembra che siano un po' così in situazione complicata. Ma non lo so, che dici tu? Sono fatti loro, non mi guardano più. Perché alla fine ha scelto lei, secondo te? Pronto? Ma questo dipende da lui, ma non lo so, perché io non volevo più starci, io non ci potevo più stare, io soffrivo, io non potevo stare, io non soffrivi perché non... lui alla fine. Quindi l'andata via tua ha portato che. Ma io ho sempre sperato che lui potesse essere con me, io sempre ho desiderato. Io questa l'unica cosa era di questo figlio che io volevo. Volevi un figlio da lui. Chiedini ha smentito che non era niente vero. Perché allora non ha smentito subito al primo giorno quando io ho detto che ero incinta? Perché non l'ha detto subito? Quante volte sei rimasta incinta di Berlusconi? Ma mai. Mai. Mai. No, ma c'è stata una cosa. No, c'è stata una cosa dove io ho fatto una cosa. Cioè, non posso raccontare una cosa che non voglio raccontare. È una cosa intima. L'hai già detto. E quindi non c'è andata. Io non c'è andato confessato. Però, non è stato che io devo uscire fuori come una bugiarda che tutta questa storia non è vero. Quando io ho detto che sono incinta, perché allora tu, io frequentavo pure a Palazzo, perché allora nessuno ha smentito? Ho smentito solamente all'ultimo, dopo un po' di mesi, quando io ho detto che non ero più incinta. Allora lì. Ma tu volevi un figlio da lui? Sì, perché era l'unica cosa che mi poteva regalare. A lui. Non avevo un uomo, non avevo niente, dedicavo tutta la vita a lui. Ma se dici che non ci facevi sesso, come facevi ad avere figlio? Se questa roba di Dio. Ma ci sono tanti modi per fare un figlio, giusto? Ho capito, però diventa complicato. Comunque, ma che nel futuro che vuoi fare? C'è una cosa che vuoi fare? Nel futuro, una cosa. Sì, voglio aiutare delle ragazze delle schiave della prostituzione, un cammino spirituale, voglio aiutare delle persone a vedere comunque una vita diversa, una vita. No, ma che vuoi fare? Vuoi avere una famiglia, dei figli, delle cose, che ne so? Cioè, vuoi fare l'astronauta, vuoi fare la pilota, vuoi fare la giornalista? Cioè, ci sarà una cosa che vuoi fare nel futuro, una cosa. Questi sono i miei segreti che io ce l'ho. I segreti, insomma, adesso non è che dire che cosa vuole fare uno nel futuro. Ma Berlusconi è uno geloso o tu sei gelosa? Raccontaci un po' una scenata di gelosia. Diciamo che lui era molto geloso, tanto geloso. E tu? Tanto. E tu gli hai fatto una scenata? Io come una pazza. Tu come una pazza? In che scenata gli hai fatto? Raccontami una scenata di gelosia. Beh, a un certo punto, diciamo che gli avrei urlavo come urlavo tanto, non mi sono mai permessa di mettere le mani addosso, perché questo non sono fatta io così, però dicono che Pascal, dicono che la Pascal è un po' meni, dicono. Sì, questo io non lo faccio, grazie a Dio, non è mio, però io urlavo tanto, lui urlavo, e una volta ho detto che non volevo più niente, perché dicevo che qualsiasi cosa, quello che avevo addosso era suo, quindi ho detto preso i soldi che avevo, che mi avevo messo in borsa, li ho presi, li ho strappati, li ho strabati, li ho buttati per terra e ho detto adesso mi svesto tutta, esco da qua nuda perché non voglio niente di te, perché anche questo maglione che ho addosso, questa mutanda l'ho pagato, comprato con i soldi che tu mi hai dato tu. E lui? E mi diceva, vabbè, si messa a ridere poi. Vabbè. Senti, comunque ti posso dire una cosa, Sabina, alla fine anche. Io questo uomo, cioè, che chiedo a Dio, perché di perdonarlo, perché c'hai per amore. Ma che gli frega di essere perdonato? Questo uomo è stato per me speciale nella mia vita. Io vabbè, quello d'accordo. Si è capito. Va bene. Ma cosa fai in Germania? Ma che ne so, c'ha la famiglia. Beve le birre, cosa fa? No, sì, vabbè. Ciao Sabina, a presto. Ciao. Saluti. Ciao. Ciao. Niccolò, Firenze, vai, Niccolò. Eccomi. Dimmi. Allora, volevo intervenire sui discorsi. Allora, premetto, vi do di tu perché si viene più poco, perché il tempo di quello è lì. Allora, avete ritirato in ballo il discorso degli animalisti. Io dicevo, allora, io vivo in campagna, va bene, e mi piace avere i polli, perché almeno mi follova da me, va bene, mi piace mangiare la carne, che so quello che mangiano. Allora, a me mi ci vuole 10 mesi per tirar su un pollo, mentre tu vai al mercato con 3 euro te lo danno bello e cotto. Certo. Lasciamo perdere. Ora, questi animalisti che te hai definito stronzi, e che io voglio ridirlo, stronzi. No, ma stronzi, io ho detto quelli che hanno denunciato la pescivendolo, il pescivendolo, per la questione della ragosta. E io dico quelli che hanno ripopolato le campagne di volpi, lupi, cinghiali e tutti ungulati vari, vipere, eccetera. Prima, quando si era contadini, non c'erano tutte queste bestie, perché negli anni 60 non c'era volpi, non c'era lupi, non c'era vipere, non c'erano cinghiali, non c'erano... Ora, questi animalisti, vorrei sapere perché, con quale scusa, cioè, si sono messi a ripopolare. Non si può più andare a cercare funghi e uno rischia... Che te fanno i polli? Che te fanno i polli? Non ho capito. Io, allora, a me, mentre ho la volpe, va bene, me ne ha fatti fuori 40. Ora, a me chi me li rende? Beh, 40 polli è grave la cosa, 40 polli allora, è grave. No, ma io, ma tu prendivi il culo, Parenzo. No, è un dramma vero. Io conosco un sacco di contadini che fanno infatti con la volpe, sono problemi. Li darò, chi ti dà i soldi? Ci saranno delle cose di legge per farsi ridare i soldi, Le leggi le sono quelle. Se tu vai alla provincia... che fra l'altro sono tutti di loro, e ti dicono, sono cose che succedono, bisogna che tutti tuteli da te. Allora, fare una rete antivolpe costa un monte di soldi, io sono operaio, non ce la posso fare queste cose, cioè, invece di aiutare la gente che si rifà un po' come se era prima, no? E vabbè, amico mio, sono problemi, non c'è dubbio. Che vuoi? È un mondo crudele, in cui alla fine la protezione degli animali vale di più della coltivazione, o di chi deve coltivare, o vuole i polli. Vabbè, va, ci sentiamo domani. Senti, ti posso dire una cosa? Lui non mi ha dato niente, tutto quello che mi ha dato me ha dato Dio. Che cazzo stava a dire, in prete omosessuale, bisessuale, transessuale? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.